Pronto? Ciao, sono io. Oh, tesoro, ti stavo per chiamare. Davvero? Sì, sì, sono sballatissima, guarda, non riesco a concludere niente qui a lavoro. È tutto il pomeriggio che voglio sentirti. Anche io, lo sai. Devo dirti una cosa importante. Aspetta che mi allontano che mi sentono. Ok, ti aspetto. Volevo dirtelo già ieri, ma non trovavo il coraggio. Aspetta che i miei colleghi, è tutto il giorno che mi prendono in giro. Tranquilla, tranquilla. Sì, sì, è lui. Shh, shh, dai, Federica, basta, Federica. Eccoci soli. Oddio, però sono imbarazzatissima, sono. Ma perché? È che non riesco a esprimere quello che sento dentro, è presente? Lo so, anche io sono negato. Ci riprovo, dai. Prendo un bel respiro. Allora, volevo dirti che non ti amo. Ho sbagliato qualcosa? Pensi un po' troppo presto per parlare di certe cose. No, no, se lo senti davvero... Guarda, io me lo ripeto sempre, cosa bisogna viversele, basta, senza metterci tante etichette lì dietro. Ma stavolta volevo proprio dirtelo. Non ti amo per niente. Davvero? Sì. Neanche io ti amo. Neanche tu. Non ti amo dalla prima volta che ti ho visto, mi stai anche un po' sul cazzo. È bellissimo quello che stai dicendo. Ma davvero non mi ami e ti sto anche sul cazzo? Non ti penso mai, sai che vuol dire mai, mai, mai. Oddio mio, ma proprio come me, era questo che volevo dirti tutto il giorno. Io ti giuro, a volte mi scordo proprio come ti chiami, mi scordo. Io devo scrivermelo su un foglietto, devo scriverlo. Ma quanto siamo fortunati. Molto, molto. Da quanto stiamo insieme? Un mese, 2 giorni, 11 ore esatte. Tutto senza amarci neanche un po'. Sei felice? E sono felicissima, guarda. È uno dei periodi più belli della mia vita, guarda. Era da anni che amavo sempre qualcuno. Mi ero dimenticata come ci si sente a non amare, guarda. Penso ormai mi ero anche rassegnata, pensavo, e quando mi capiterà più di non amare una persona? Lo so, succede sempre così. Mi davo anche un sacco da fare, scopavo a destra e a sinistra, ma non succedeva mai nulla. C'era sempre qualcuno che mi piaceva tantissimo. Poi finalmente, quando ho smesso di cercare... Eccolo lì che trovi uno che non te ne frega un cazzo. E infatti... Sono meccanismi. Io invece credo sia la prima volta che non amo una persona. Ma sei sicuro? Lo sai che è una cosa forte quella che dici? Lo so, ma questo è quello che sento. Certo, non posso prometterti niente. Lo so. Magari adesso sto così e poi tra un mese ti amo. Lo so, non possiamo prevedere. Ma quello che è importante, credo che non ci amiamo adesso, no? Sei fantastico, lo sai. Detto da te mi crea un'enorme indifferenza. Ora però devo tornare a lavorare che mi chiamano. E ci sentiamo dopo. Certo. Dormi da me. Va bene. A dopino allora. A dopino. Attacca prima tu. No, prima tu, dai. Non ti amo. Non ti amo di più io. Ciao. Ciao.